sintetico, e dici qual che ti gusta. Qui è il locale dove avviene la salatura, i formaggi vengono salati con quattro mani, quattro giorni sono salati e dopo inizia la maturazione. Dopo un secondo tempo li portiamo a valle per portarli giù a Bormio. Ecco, qua stai, sì, tutto sommato. Non devi niente altro a dire.